18 minuti, buona giornata da Anna Migliorati. Eccoci qui, un po' in ritardo, ci siamo concessi anche noi in questa giornata di festa un po' più di riposo, ma ci siamo, cominciamo prontissimi. Da domani torna anche Alessandro Milan, anche per lui ultimo giorno di vacanza, da lunedì torna Alessandro Milan. Nel frattempo i giornali, come tutte le mattine, sono qui e allora cominciamo la nostra rassegna stampa. Carrellata di titoli innanzitutto, e sicuramente il ritorno di Berlusconi a Porta il tema che domina principalmente le pagine dei quotidiani, ma ci sono anche i conti nelle tasche di tutti. Ieri il Presidente della Repubblica ha firmato il testo del decreto IRPEF, ma quello che porterà i famosi 80 euro nelle tasche di chi guadagna fino a chi spetteranno fino ai famosi 28.000 euro, ma che succede? Il Colle ha voluto chiarimenti per rifare un po' i conti. Su questo apre oggi il Sole 24 Ore, che ricorderete ieri aveva sollevato la questione dei conti correnti e delle maggiori tasse che arriveranno sui conti correnti. Oggi il Sole 24 Ore fa altri calcoli. Per spese e tasse il calo si ferma a 2,8 miliardi. Questi i conti fatti dal Sole 24 Ore. Il testo in Gazzetta Ufficiale: le nuove entrate riducono l'impatto del taglio del cuneo. Cosa significa tradotto? Che sì, taglia le tasse ci sono, ma sono meno di quelli che si pensavano, perché altre tasse aumentano. O comunque, per spese e tasse il calo è a 2,8 miliardi, scrive oggi il Sole 24 Ore, che fa anche una classifica di chi guadagna e chi perde. Napolitano firma dopo i chiarimenti di Padoan. Il Messaggero, anche qui l'apertura dedicata ai conti in tasca, in qualche modo garanzia sull'IRPEF, ok del Colle, la firma dopo i chiarimenti alla clausola di salvaguardia. E poi il Messaggero va avanti sulla sua campagna di conto di quelle che sono le spending reviews, sporviciata del 15% agli stipendi di Palazzo Chigi. Il rientro dei capitali, scrive ancora il Messaggero, il Tesoro studia una nuova formula. In taglio centrale, riforme, strappo di Berlusconi e Renzi che dice solo uno spot elettorale, perché è questo, dicevamo, l'altro tema di giornata. E allora il Corriere della Sera, la pagina è sostanzialmente divisa a metà: Berlusconi vacilla il patto con Renzi, il nuovo Senato fa saltare tutto, e poi ancora Conti, Unione Europea, la mossa del Colle. Così scrive il Corriere della Sera, mentre la Repubblica, scelta opposta, l'apertura: Berlusconi affonda, il patto sul Senato è incostituzionale, il negoziatore inaffidabile, così come lo definisce Sebastiano Messina su Repubblica. E poi ancora la mini tassa sui conti correnti, da lati deboli della manovra, dice invece Federico Fubini. La Stampa: Berlusconi rompe con Renzi. E poi ancora il Giornale: finalmente Berlusconi, cavaliere all'attacco sulla sentenza, condanna ingiusta e ritorno in TV. Berlusconi rottama Renzi, cavaliere scatenato, scrive lì Libero. Anche qui però, anche su Libero, l'attenzione anche sui conti, sia il decreto sul bonus, ma per trovare gli 80 euro spuntano i tagli lineari, scrive Libero. E l'immagine, ve la racconto, è quella di Pannella, l'ultima boiata di Pannella, scrive Mario Giordano, fumo in ospedale due giorni dopo l'intervento alla aorta, esibizionismo pericoloso. Ma torniamo, dicevamo, ai temi di oggi, perché il Fatto Quotidiano, il titolo, Renzi, il giorno più nero tra Napolitano e Caimano, così scrive il Fatto Quotidiano. Ovviamente la giornata al Colle per Padoan e Berlusconi a Porta a segnare quello che il Fatto Quotidiano definisce il giorno più nero per Renzi. E sotto ancora però anche l'altro competitor politico, in qualche modo, Grillo a 5 punti dal PD, il terrore corre a Palazzo, i sondaggi che dà il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che su Berlusconi racconta anche Un altro retroscena: Villa Lacertosa non si aggiude, non si addice ai pregiudicati, dice il Fatto Quotidiano. Ora in vendita, se ne è parlato per molto tempo, ora Villa Lacertosa sarebbe veramente in vendita, stando almeno al Fatto Quotidiano. L'Unità: è tornato lo sfascia carrozze, anche qui il riferimento è al ritorno di Berlusconi. Gufi a chi? Berlusconi va da Vespa e minaccia di sganciarsi dal patto delle riforme. Il Manifesto: gufi a chi? L'immagine sono Berlusconi e Napolitano. Le spine di Renzi, il titolo dell'Avvenire, il premier ai suoi: calma, non rovesciamo il tavolo. Secondo l'Avvenire, Renzi starebbe cercando di calmare il Partito Democratico dopo questo ritorno di Berlusconi. Il Secolo XIX, anche qui Berlusconi piccona le riforme, Berlusconi siluro a Renzi, titola Quotidiano Nazionale. La Padania va avanti per la sua strada con le sue battaglie. San Marco: liberaci da Stato centralista, governo degli sprechi ed euro, giornata del 25 aprile, e la Padania la punta sui secessionisti veneti. Carrellata, dicevamo, questa dei temi. Cominciamo però anche a vedere un po' più da vicino quello che c'è oggi sui quotidiani e come vengono poi raccontati questi fatti. E allora cominciamo, dicevamo, dalla Spesa e dal Sole 24 Ore. Chi ci guadagna e chi ci perde, trovate in prima pagina oggi sul Sole 24 Ore. Col famoso bonus degli 80 euro. Se riparte l'economia, ma il credito resta fermo, che scrive tra l'altro nel commento di oggi Carlo Bastasin, parlando ancora di una ripresa fragile. Alleggerimento fiscale complessivo di 2,8 miliardi come saldo tra maggiori e minori entrate, dicevo, il Conti che fa il Sole 24 Ore, un taglio di spesa della stessa misura. È questo che c'è dentro il famoso decreto che porta gli 80 euro. E a puntare l'attenzione su il futuro troppo incerto, così viene definito, degli 80 euro è il Corriere della Sera. La firma è di Enrico Marro. Il governo Renzi ha mantenuto la cattiva abitudine dei precedenti esecutivi di annunciare l'approvazione di provvedimenti salvo mandarli in Parlamento con minimo una settimana di ritardo. Così scrive oggi. E poi abbiamo Marzio Breda, firma un retroscena. Cosa, perché Napolitano ha richiamato il documento al Colle? Scrive Marzio Breda: il Quirinale e la strettoia europea, quel rischio di manovra correttiva, i chiarimenti del governo e le riflessioni sul contenuto. Cos'è che fa riflettere Napolitano? È il famoso 3%. Il decreto stava in piedi tranne alcune sfumature, scrive Marzio Breda, ma qualche ulteriore chiarimento Presidente della Repubblica se lo aspettava. Perché? Perché voleva verificare altre cose, per esempio gli effetti sull'economia reale, sull'equilibrio complessivo dei tagli alla spesa di enti locali, ministeri e diverse strutture della della pubblica amministrazione. Ed eccole allora le questioni che in questi giorni sono state da più parti sollevate. Da una parte, cosa ne faranno i famosi 80 euro se ci sarà il famoso impatto sull'economia del reale? Dall'altra, i tagli, ne abbiamo parlato anche noi ieri, e che riguarderanno molto probabilmente ancora una volta le regioni e quindi ancora il rischio sanità. A tornare ancora su questo tema è questa mattina anche la Stampa di Torino. Allora andiamo direttamente nelle pagine interne, pagina 9. Perché a parlare è il presidente della conferenza Stato-Regioni Errani. Così non va, tagli da rivedere, la rivolta delle regioni. Ne abbiamo parlato anche noi ieri mattina. Troppi 700 milioni a nostro carico, le cifre sono da riequilibrare con la spesa di Roma. Sono le stesse cose che abbiamo sentito anche noi ieri mattina qui a Radio 24 parlando di questo. Sulla sanità, incontro con il Premier per l'applicazione dei cosiddetti centri standard, il famoso centro unico per gli acquisti. Ieri si sono riunite le regioni in rivolta, chiedono ancora una volta che anche Roma riveda i suoi tagli. 7:27 minuti. Altro tema di giornata sicuramente oggi è la canonizzazione dei due papi, Papa Wojtyla, Papa Roncalli. Ne parleremo ampiamente dopo le 8. Nel frattempo uno sguardo anche ai giornali di oggi, che ne dicono: Avvenire, ovviamente doveroso, guarite dai miracoli grazie a Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Avvenire oggi pubblica le storie che hanno portato alla canonizzazione. Ma commenti si sprecano in questa giornata. Tra tutti andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Perché il Corriere oggi pubblica due interventi sui due papi, ma sono le firme ovviamente a darne il valore aggiunto. A scrivere di Giovanni Paolo II e Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, è un testo dell'aprile del 2005. Papa Francesco racconta Giovanni Paolo II. E a firmare invece il racconto di Giovanni XXIII questa mattina sul Corriere della Sera è un altro testo di Joseph Ratzinger, di Benedetto XVI, che racconta Giovanni XXIII. Ed ecco qui il nodo di questa giornata, della giornata di domenica, che sarà storica perché per la prima volta nella storia due papi viventi presiederanno la canonizzazione di due papi, e quindi qui starà molto del nodo di quello che vedremo domenica. Ieri abbiamo raccontato delle polemiche che ci sono state altrove, non in Italia, con il New York Times, che ha duramente attaccato questa canonizzazione. Se ne discute ancora oggi. Vi segnalo tra gli altri il contributo per la storia del papato, ma le polemiche anche che si stanno sollevando oggi su Il Foglio. Prima della nostra pausa, ancora un altro tema, ancora qualche istante ce l'abbiamo. Taglio basso della stampa, vi leggo il buongiorno di Massimo Gramellini, umano, pur troppo umano. Di che scrive oggi Massimo Gramellini? La suggestione devastante, lo riconosco, una croce di 30 metri con appeso un Cristo di 6 quintali che si spezza e precipita su un giovane credente. L'assurda tragedia avvenuta nel Bresciano, in Val Camonica, ieri. Cosa scrive? Tra i tanti commenti che si sono sprecati nelle ultime ore Massimo Gramellini. Cosa ci racconta alla fine tutto questo? Ci racconta di una storia tristemente nota ai frequentatori del patrimonio culturale italiano, una storia fatta di incuria, manutenzione approssimativa, segnali di pericolo disattesi, la solita mediocre tragicommedia per cui non è proprio il caso di tirare in ballo un dio o il destino, essendo più che sufficiente l'uomo per metterla in scena. Così scrive Massimo Gramellini. Una piccola pausa e poi gli altri temi di oggi. 24 mattino. Berlusconi titola il giornale. Berlusconi rottama Renzi, Cavaliere Scatenato titola Libero. L'abbiamo sentito, è uno sprecarsi di commenti e di analisi questa mattina sul ritorno di Berlusconi ieri a Porta a Porta. E allora ricominciamo da qui e dai commenti che oggi ci sono. E cominciamo da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, perché al di là di quelle che sono state le posizioni politiche espresse da Berlusconi ieri, almeno così raccorda Fabrizio Roncone, c'è stato anche un diverso Berlusconi in qualche modo, che si è presentato da Vespa. La levità smarrita tra applausi e farda, scrive Fabrizio Roncone. Scherza? Si scandalizza uno della scorta. Il presidente Berlusconi arriverà già truccato. Contento lui, sospira la truccatrice della RAI, poi chiude la scatoletta del fard, spegne la luce dello specchio e va a mettersi alla finestra. Così scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, che racconta l'arrivo di Berlusconi prima della registrazione. Lo aspettano affacciati, certi sui balconi, altri impiegati sono scesi nel cortile, fotografi e cameraman dietro alle transenne, fuori su Via Teulada, giovani di Forza Italia sventolano due bandiere tricolore. In tanti anni mai nessuno è stato accolto così, dicono da Porta a Porta. La trasmissione, le posizioni politiche e poi titoli di coda. E prosegue ancora Roncone. Dovete sapere che a questo punto c'è il rito dei pasticcini. Berlusconi, quando viene ospite da Vespa, alla fine della registrazione va subito a infilarsi nella saletta VIP per rilassarsi e mangiare pasticcini e babà. Solo che stavolta il catering della Rai in Tempting di Spending Review ha tagliato i babà. No, scusate, come sarebbe che non ci sono? Come si fa? Le parole che avrebbe detto Berlusconi: Vespa, come si fa? Ci siamo adeguati al momento economico, risparmiamo. E allora impressioni, chiede Roncone a Vespa. Com'è Berlusconi? Ha iniziato piano, in fondo era un nuovo esordio, mezz'ora di scaldarsi, poi però si è scatenato. Un passaggio piuttosto delicato. Dopo essere stato ospite a Porta, lui ha sempre recuperato qualche punto nei sondaggi. Credi che possa accadere anche stavolta? La domanda a Vespa. Qualche punto magari sì, lo prende pure stavolta. In realtà ogni previsione è abbastanza complicata, perché non era mai successo che non fosse candidato. Berlusconi intanto è lì che mangiucchia, si è accontentato di piccoli bignè. La senatrice Rossi si avvicina premurosa e ora dobbiamo andare. Come ogni sera, entro le 23, deve essere di nuovo ad Arcore, così ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza. Il racconto di quel che non abbiamo visto in TV sul Corriere della Sera. E poi dicevamo i commenti, molti già nei titoli, e uno tra tutti su Repubblica scrive Sebastiano Messina: il personaggio, il negoziatore inaffidabile. Berlusconi torna da Vespa e, per dimostrare che è sempre quello di prima, il patteggiatore più inaffidabile che si sia mai visto, fa saltare subito il patto del Nazareno. La riforma del Senato così non è votabile e l'Italicum forse è incostituzionale. Ma Berlusconi ha parlato ieri anche d'altro, e allora la Gazzetta dello Sport, anche qui ci sono le parole di Berlusconi. Parla Berlusconi: il Milan vale più di 500 milioni, la vicenda è quella della trattativa per la vendita della squadra rossonera, il proprietario conferma l'anticipazione della Gazzetta, con quella cifra si prende solo una quota, Lima al bivio, Kong in ascesa. Le parole ieri di Berlusconi: il Milan varrebbe più di 500 milioni, la battuta è stata: ma dai, non scherziamo sulle cose sacre. Repubblica, voltiamo pagina, torniamo invece alla politica. Alla politica oggi, ma anche con Renzi, Berlusconi abbiamo parlato, c'è anche Grillo, c'è anche il Movimento 5 Stelle. E sulla Repubblica quest'oggi l'intervista è a Pizzarotti, il sindaco di Parma: basta fatue da Grillo e Casaleggio, io resto nel Movimento. Una pagina dedicata al sindaco di Parma sulla Repubblica di oggi. Faccio il sindaco nonostante la fatua, e dice Pizzarotti: se non amministri è difficile rendersi conto di cosa significa farlo. Scrive Paolo Berizzi, seduto al bar davanti a un succo di mirtillo. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, bollato di eresia dal guru pentastellato Roberto Casaleggio e dal leader Beppe Grillo, porta la fatua con la disinvoltura del nerd deciso a resistere sotto i colpi della tempesta perfetta, e annuncia a Serafico che lui dal Movimento non ha intenzione di dimettersi. Io sono tranquillo, vado avanti, mancano ancora 3 anni alla fine del mio mandato. Il mio dovere, dice, è rispondere ai cittadini tutti, anche quelli che non mi hanno votato. Pizzarotti non vuole fondare un partito, lo dice chiaro, né tantomeno raccogliere sotto la propria ala i numerosi dissidenti grillini, anche se i veleni restano una costante della sua vita politica nel Movimento 5 Stelle. Per dire, Grillo e Casaleggio negli ultimi giorni non è pure fatti sentire. E la risposta di Pizzarotti: forse perché c'è stata la Pasqua. Altri temi di oggi, 7:40 minuti, parliamo anche di Piombino. Il Sole 24 Ore oggi racconta lo spegnimento dell'altoforno di Piombino, tra i molti temi. Accordo di programma, 250 milioni per la riconversione, scrive nelle pagine interne. Pagina 8, Mariano Maugeri: non fatemi vedere la bestia mentre si addormenta, implora un ingegnere che per mestiere ha domesticato gli altoformi di mezza Italia. Questi cilindri coperti di ruggine simili a un acquafan con un tremo a cremagliera, una sorta di montagna russa che vomita coc. filtra solo un'indiscrezione, scrive Sole 24 Ore, che la data per accedere alle due diligence fissata tassativamente per il 30 aprile potrebbe slittare di 15 giorni. Perché? Perché forse non è tutto perduto, il futuro ha un nome e un cognome. Xi'an Jindal, azionista del gruppo siderurgico più potente d'India, con 4 acciaierie sparse per il paese, ricavi per 4,5 miliardi di dollari. Raccontano che un mese fa è arrivato senza farsi notare a Piombino, ha girato la fabbrica, ha conosciuto i dirigenti e i tecnici. Chissà, forse il futuro di Piombino potrebbe passare dall'India. Ma a proposito di Sole 24 Ore, Mauro Meazza anche oggi. Buongiorno. Anna, buongiorno, buongiorno e grazie. Tu sì che lanci degli a proposito, adeguati. Di alto livello. Non così si può dire invece di Alessandro, ma è sempre via Alessandro. È sempre via, ma deve fare l'ultimo ripasso per il compito di lunedì sul condominio. Per il compito in classe sul condominio, certamente. Beh, intanto oggi trovo un sacco di cose da studiare anche sul decreto Renzi, cioè il decreto quello degli 80 euro in busta paga, quindi... Ne abbiamo parlato, chi ci guadagna, chi ci perde, qui sì, ma anche, ha molto da studiare. Ma anche tutta la parte che riguarda poi i sostituti d'imposta, quindi i calcoli necessari e poi i casi un po' particolari tipo le colf che dovranno affidarsi alla dichiarazione, ma è spiegato tutto anche con una serie di schede nelle pagine di norme e tributi del Sole 24 Ore di oggi. Ah, e poi ti vorrei parlare degli F24. Tu come sei messa con gli F24, Anna? Non vorrei metterti in imbarazzo. Malissimo! Allora, l'F24 che non è un aereo, men che meno un aereo militare, no, però è una delega per il pagamento delle imposte. Devi sapere che nel decreto Renzi c'è anche una disposizione che dal 1 ottobre prevede che l'F24 che sta sopra i 1000 euro per importi sopra i 1000 euro vada in via elettronica, ma anche questo è spiegato e dove se no sul Sole 24 Ore. Poi il Sistri, sul Sistri sei preparatissima, no? Ne abbiamo già parlato. Assolutamente, sì. Il sistema di calcolo, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, è stato firmato il decreto che esenta da questo nuovo sistema le imprese fino a 10 addetti e ne riferiamo, indovina un po' dove, nelle pagine di norme e tributi, tutto le 24 ore. Nella finanza invece Mediaset che tratta con Al Jazeera e Canal Plus, Simone Filippetti spiega perché, tra l'altro c'è poi anche una cosa che riguarda il Milan, ma adesso non ti voglio annoiare con queste storie che di solito, come dire, appassionano noi maschietti, Alessandro e me, ma vabbè sono ma si vende, non tristi. Si vende, vedi che sono preparata. Ma insomma sembrerebbe di no, per il momento sembrerebbe di no, forse non si trova un compratore, chi lo sa, però se leggi Filippetti, oltre alle questioni appunto che riguardano Premium e Mediaset per le trattative con francesi e con Al Jazeera, con il Canal Plus e Al Jazeera, vedrai anche che ci sono dei passaggi dedicati doverosamente al Milan. E questo, insomma, poi naturalmente la sentenza Thyssen, ma immagino che tu ne abbia già dato segnalazione con questa decisione di Cassazione. Sì, questo... Assolutamente, il racconto di Mariano Maugeri è veramente splendido. E anche in retroscena, anche qui, gli indiani che arrivano. Pare. Allora, dunque, per quanto riguarda diciamo la giornata di oggi, io ti voglio segnalare che le pagine sul decreto Renzi che cominciano oggi, che è in vigore, tra l'altro non so se ti sei accorta, stamattina è tutta un'area diversa perché è in vigore il decreto sul bonus IRPEF. Era questa la novità di quest'arietta nuova? Quest'aria frizzante, è vero, non ce l'aspettavamo, ma il decreto è in vigore. E queste pagine proseguiranno nei prossimi giorni, quindi anche domani avremo delle pagine di approfondimento e così anche lunedì e martedì per spiegare, per illustrare tutte le novità della... Vediamo se sei preparato anche tu, c'è in edicola anche il... È vero, calcio intelligente, è questo il titolo in copertina di Il. A proposito di calcio, ti segnalo io una cosa questa volta: 2014, 3 miliardi di persone in fila al seggio. Non votiamo solo in Europa, 3 miliardi nel mondo vanno al voto. Questo lo sapevi? No, questo non lo sapevo, devo dire mi hai colto impreparato. Evviva, ce l'ho fatta, questa la segnalerò ad Alessandro Milan. Ma d'altra parte so che tu sei una studentessa modello, a differenza di altri, che comunque ritroveremo lunedì, penso, fino lunedì torna Alessandro Milan. Mauro, benissimo, è il tuo momento. Ah, molto bene, è un momento importante che oggi è un giorno anche di festa, insomma. Allora, traffico. 24 mattino. Torniamo con un altro dei temi ancora oggi in primo piano, la sentenza Thyssen, la stampa di Torino, l'ultima svolta, la Cassazione, le pene devono essere ricalcolate, nuovo processo d'appello sulla strage del 2007, la rabbia dei familiari, tra l'altro nelle pagine interne della stampa, ma non solo, sono assassini, non deve finire così, delusione e lacrime alla lettura della sentenza. E anche la Repubblica lo racconta, processi da rifare, rila dei parenti, codardi, parenti delle vittime si infuriano, non vogliono farli andare in galera, le pene che vanno dai 7 ai 10 anni di reclusione per omicidio colposo devono essere ricalcolate. I giudici, come spiega Repubblica, hanno confermato l'impianto accusatorio, ma le pene non sono troppo sono sbagliate numericamente, e da qui il rifacimento del processo, e i parenti non vogliono farli andare in galera, il grido ieri sera l'avete sentito anche in GR24. Le 7:48 minuti, 25 aprile, oggi lo dicevamo poco fa anche con Mauro Meazza, e allora doverosi anche i commenti su questo oggi sui quotidiani. Il Messaggero, cominciamo da qui, ci dedica ampio spazio, vediamo, eccolo qua. Il 25 aprile liberato dalle guerre ideologiche, voltare pagina, scrive il Messaggero, sono passati esattamente 20 anni da quel 25 aprile del 1994 in cui per la prima volta la festa della liberazione fu celebrata con rituali ufficiali un po' ripetitivi e si trasformò in tema di mobilitazione emotivo, di scontro politico. Cominciava così una guerra della memoria che sarebbe prolungata con fasi alterne nel corso di un ventennio, con conseguenze tutt'altro che positive sulla coesione sociale e culturale del paese, ovvero sulla capacità di riconoscersi al di là delle fisiologiche e necessarie divisioni politiche. Scrive anche il giornale Vittorio Macioce, divisi su tutto dal 25 aprile al 4 novembre, un paese che ha perso la festa, siamo il paese di Pietro e Paolo, Guelfi e Ghibellini, bianchi e neri, carbonari e papalini, piemontesi e borbonici, Coppi e Bartali, rossi e neri, tifosi. Qual è il giorno degli italiani? Gli americani hanno il 4 luglio, i francesi il 14 luglio, gli inglesi si riconoscono nel giorno di nascita di Elisabetta II, i tedeschi si emozionano il 3 ottobre per la riunificazione, il 25 aprile, oggi, bella festa, la liberazione, ma noi da qui cominciamo invece le disquisizioni, chi ci ha liberati, gli Yankee, no, ci siamo liberati da soli, più o meno, festa della patria, allora quale patria, quella perduta, quella sognata, non facciamoci illusioni, il 25 aprile in Italia ancora non è per tutti, così scrive il giornale, e lo è per le nuove generazioni, il Fatto Quotidiano, memoria cancellata. Mi chiedi che cos'è il 25 aprile? La risposta dei ragazzi, la scuola chiusa. Sull'Unità, la lettera invece è di Matteo Renzi, che ha preso carta e penna in questa giornata del 25 aprile e ha scritto all'Unità le radici dell'ottimismo, la lettera firma di Matteo Renzi, che sostiene che invece proprio in questa giornata del 25 aprile è cominciato l'ottimismo italiano. Il volto di oggi è stato pagato a caro prezzo ieri, scrive il Premier, e forse è arrivato anche il momento di capitalizzare quei sacrifici. L'Italia del 25 aprile non è quella di una parte, ma quella di tutti. Lì abbiamo scelto di scrivere per la prima volta la nostra carta d'identità che si chiama Costituzione. Lì abbiamo messo nero su bianco chi volevamo essere, dove volevamo andare, grazie a quel passaggio che oggi possiamo immaginare il nostro futuro, immaginarlo con fiducia. L'ottimismo ha le radici nel 25 aprile, così la lettera invece di Matteo Renzi. Ma attenzione, attenzione, torniamo a parlare anche di cose un po' più leggere. Chissà dove andate oggi, che è il 25 aprile. Boom di agriturismi, l'abbiamo letto un po' dappertutto. E allora sentite cosa scrive invece la Repubblica. Boom di agriturismi sì, ma fate attenzione, sagre fasulle, così il chilometro zero arriva da lontano. Frutta e verdura al mattino erano nei mercati a chilometro zero. Ecco le patate del mio campo. Ma non è vero, arrivano da Francia, Olanda o Stati Uniti. Sagre taroccate, mercatini fasulli, pagina 25 della Repubblica. Quando il chilometro zero arriva da lontano, su 42.000 manifestazioni paesane in Italia soltanto 15.000 offrono prodotti autentici. Attenzione ai finti agriturismi, sono 2 su 3. Una task force della Forestale non dà tregua. E scrive, eccola ancora, l'Italia delle molte regioni sulla Repubblica. Ogni regione ha le sue regole. In Abruzzo il 60% delle materie prime deve essere prodotto in azienda, il 30% nel Lazio, il 35% in Romagna. Allora, attenzione, il grido lanciato da quest'oggi, dalla Repubblica. 53 minuti, sì, un minuto l'abbiamo ancora. Posso farvi 2 segnalazioni che vi faranno forse un po'... guardare anche fuori dall'Italia, ma con delle storie anche qui su cui riflettere. La rabbia per una mega festa in un'ala di un palazzo, di un grandioso palazzo dedicato a museo, la festa della First Lady, che fa arrabbiare il party sontuoso della moglie, un'ala di cosa? Del palazzo dello Shah di Persia, dedicata a museo ma utilizzata per la festa della First Lady. Non siamo in Italia, siamo in Iran. Le critiche sono arrivate sull'iraniano Rouhani, perché della moglie non si conosce nulla, si sa che lo ha sposato quando aveva 14 anni, ma ora invece è nella bufera perché un'ala del palazzo degli Shah l'ha utilizzata per una sua festa privata. E grane in America anche per Obama, perché l'incubo dell'elicottero di Obama, pagina 15 del Corriere della Sera. Si presenta un solo contendente, dopo 40 anni la flotta presidenziale deve essere sostituita. Nel 2012 la Casa Bianca cancellò la gara vinta dal consorzio Confimmeccanica, ma i costi potrebbero esplodere anche stavolta. Perché? Perché pare che nessuno voglia fare gli elicotteri per la Casa Bianca. Sono gli stessi da 40 anni, gli stessi che potete vedere nelle immagini in bianco e nero di Richard Nixon, la più grande potenza del mondo, con gli elicotteri di 40 anni fa. 2 ultime chicche per chiudere un po' anche i racconti di quest'oggi, 25 aprile, 7:54 minuti, chiudiamo qui, c'è GR24, questo naturalmente anche molto altro sui giornali. Ci risentiamo dopo le 8, parleremo della canonizzazione dei due papi, parleremo anche del 25 aprile.